orchestra suona l'ultimo refrain. Non so se devo andarmene o restar. Io sto cercando di convincermi che poi non è cambiato niente fra noi. L'ultimo valzer tempo per parlare.